concludere con la campagna di Azione Giovani, che su cui abbiamo anche un po' scherzato l'altro giorno. Volevo soltanto aggiungere qualcosa relativamente ai meccanismi di finanziamento di queste campagne, perché secondo gli studi dei grandi istituti di sondaggio pare che questi grandi cartelloni, questi 2x3, questi billboard come li abbiamo chiamati, come vengono anche chiamati in ambito pubblicitario, siano in grado di spostare notevolmente l'opinione degli italiani, che è abbastanza ormai normale. Gli italiani sono lobotomizzati dal punto di vista delle opinioni politiche. E questo fa sì che le concessionarie di pubblicità guadagnino cifre altissime per queste campagne di affissioni. E allora la domanda che mi pongo è: come si finanziano le campagne di questo tipo? Cioè, chi mette i soldi? Allora, non voglio essere malizioso e dire che la gran parte delle concessionarie di pubblicità sono controllate dalle aziende che sono capo al nostro Presidente del Consiglio, perché questo è un filone su cui già sono stati versati fiumi d'inchiostro e dette molte parole, però semplicemente lancio un po' una provocazione, ed è la seguente: non credo francamente che i militanti di Azione Giovani si siano messi per esempio a lavorare per guadagnare le cifre, i miliardi di cui bisogna disporre per poter mettere in piedi una campagna di questo tipo. Campagna anche abbastanza vana dal punto di vista dei messaggi, come ho avuto modo di dire nella registrazione precedente. Però in qualche modo c'è sempre comunque una forma di simpatia verso qualsiasi giovane che si lanci in un'operazione militante, anche di propaganda e anche di segno opposto alle proprie convinzioni politiche, come in questo caso. Invece meno giustificabile è la rincorsa agli auguri di Natale e ai ringraziamenti post-elettorali, dove veramente non si riesce a capire a cosa serva tappezzare una città di ringraziamenti dopo un'elezione, soprattutto quando l'elezione viene persa, come le recenti amministrative che sono state perse dal centrodestra che poi si è profuso in una valanga di ringraziamenti a mezzo cartellonistico. Per non parlare appunto poi degli auguri di Natale. Io francamente, se un politico imbarcasse la città per farmi gli auguri di Natale, sarebbe un altro motivo che si aggiunge ai molti altri per mandarlo a casa, per non votarlo e non volerlo neanche mai vedere apparire davanti a me. Qui a Roma c'è anche stato il tentativo di rispondere a questo tipo di campagne, che in certi casi sono anche abusive, cioè si svolgono su spazi dove non sarebbe possibile affiggere alcunché. Però poi anche queste contromisure, per esempio apporre una faccia arrabbiata sopra il cartellone con scritto affizione abusiva no grazie o qualcosa del genere, non funziona, questa è la verità. Ed è un po' come porsi sullo stesso terreno dell'autore dell'infrazione. Alla fine anche la propaganda, diciamo così, questa la chiamerei la sottopropaganda, perché sfugge a qualsiasi reale meccanismo elettorale, risponde a regole ancora tutte da codificare, tutte da capire, regole nelle quali anche gli uomini di buona volontà stentano ad orientarsi. Un giorno magari tutte le malizie della comunicazione, della propaganda, saranno più chiare, anche i meccanismi emotivi, la differenza tra leve emotive, leve razionali, la capacità di influenzare l'elettorato, saranno più capite anche da chi magari vorrebbe che la competizione si spostasse su terreni diversi, come non tanto il terreno delle promesse quanto il terreno delle cose compiute.